Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. Trovo che giocare ai videogiochi non sia molto utile. Piazzarsi ore ed ore davanti ad uno schermo, con in mano un joystick, a premere pulsanti su pulsanti, per interagire in un mondo virtuale nel quale non sei te stesso. Videogiochi dove rubi automobili, simuli guerre realmente accadute e ammazzi persone, per puro gioco. Ci sono ragazzi coscienti che tutto ciò è solo un gioco, altri, la maggior parte, che confondono il reale con il virtuale. Questo è un bravo Chierichetto che su YouTube mette la sua preghierina al grande Dio dei giochi di una volta, perché allontani i bravi ragazzi dai videogiochi che fanno confondere il rappresentato con il reale. Questa è una teoria abbastanza passatista, abbastanza antiquata, considerato che ormai sono decenni che esistono i videogiochi, non è nulla di totalmente nuovo, ormai ci sono generazioni, mio figlio ha 19 anni, per cui il videogioco fa parte degli strumenti di apprendimento della sua infanzia. Ha cominciato a videogiocare con me, che ancora non sapeva probabilmente nemmeno scrivere, e si ricorda con nostalgia: papà, ti ricordi? E va a ricercare le casse dove tira fuori i vecchi dischi dei vecchi videogiochi. E sono riuscito in qualche maniera, ritirando fuori i vecchi sistemi operativi e antichi computer che tenevo ormai nello sgabuzzino dei ricordi d'infanzia dei miei figli, dove qualcuno tiene gli orsacchiotti, i cilindretti e le scatolette della Chicco, le farfalline sonanti. Io tenevo appunto dei vecchi computer, e riesumando gli antichi giochi è possibile come riaprire la scatola degli antichi giocattoli. Ecco, questa mattina probabilmente molti ancora staranno assaporando le ultime fasi dell'ultimo videogioco che hanno trovato sotto l'albero di Natale, perché in questi giorni si ha molto tempo, si gioca velocemente, si arriva presto alla fine. Molti altri staranno rabbrividendo, pensando che questa mattina parleremo ancora di quelle cose quasi diaboliche per cui ragazzi prendono un fucile mitragliatore e fanno delle stragi. Beh, noi invece oggi parliamo di videogiochi. Scrivile, prenota, c'è un tavolo in un bel posto. Sì? Ecco, l'ho trovato. Ma chi è che parla? Oh, la mia amica Samantha. È una ragazza? Sì. Io le odio le donne, non sanno fare altro che piangere. Guarda che non è vero, e anche gli uomini piangono. A me piace piangere certe volte, mi fa bene. Non sapevo che eri una femminuccia, per questo non hai una ragazza? Ci ascoglio con quella e me la sbatto fino a farla svenire. Tu puoi guardare e piangere. Ok, il ragazzino ha dei problemi. Ce li hai tu i problemi, bella. Dici? Ecco, se vogliamo bene, darvi subito questa mattina l'incubo di un futuro come lo immaginate voi, questo è il film Her, Lei, in cui il protagonista, che ha allacciato una storia d'amore con un software che gli parla nell'orecchio, che diciamo l'interfaccia con il grande sistema operativo che connette l'umanità in un futuro nemmeno troppo lontano, e interagisce con un videogioco che ha una sua individualità, una sua capacità di rendersi autonomo rispetto alla sua programmazione. Questo è un futuro che a me non spaventa, fa parte comunque della nostra evoluzione, lo guardo anche con molto interesse. Marco Pellitteri, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Marco Pellitteri, sociologo dei media, dei processi culturali, insieme a Mauro Salvador, ha appena pubblicato un libro per le edizioni Tunuè, Conoscere i videogiochi, introduzione alla storia e alle teorie del videoludico. Noi stiamo parlando di videogioco come se fosse una sorta ancora di universo futuribile che non appartiene più all'umanità. Ma perché secondo te in Italia non ci rendiamo conto che oramai fa parte dell'esperienza umana del nostro paese, come lo facevano i soldatini di piombo e i tamburini di latta dei nostri bisnonni? Ci sono varie ragioni per le quali, come dire, i videogiochi sono un immaginario in sordina in Italia. In Italia l'immaginario popolare, per usare l'aggettivo che hai usato tu poco fa, è passatista. Lo era negli anni 70-80, quando arrivarono i disegni animati giapponesi che parlavano di futuro, lo è ancora adesso. Per ragioni insomma molto molto complesse, il videogioco è sottorappresentato in Italia, quando invece è un mercato estremamente florido, è un mercato che nei periodi, negli anni diciamo scorsi di crisi economica, gravissima che ha attraversato tutto il mondo, in realtà è uno dei pochi mercati che ha risentito meno della crisi e che insomma è aumentato. È una fucina di talenti anche in Italia, talenti che rimangono in Italia e talenti che vanno fuori. E, non so, forse dovremmo chiederlo ai nostri, diciamo, intellettuali più anziani, per quale motivo il videogioco è così sottorappresentato e così inviso. Ma io mi ricordo che ci fu un'intervista quando era presidente del Consiglio Massimo D'Alema. Dice: no, io mi piacciono i videogiochi, gioco sempre. E poi giocava a pinball, quello che stava di default dentro, mi sembra, Windows 98, che è una scorta ridicola, è una specie di biliardino elettronico ma antiquatissimo. Per lui quello era un videogioco. Beh, nel libro, in particolare Mauro, che si è occupato della storia anche dei giochi, parliamo anche dei casual game, insomma dei giochi che non giocano, diciamo, i videogiocatori duri e puri, ma una popolazione più casuale, appunto, e sono videogiochi poco impegnativi, direi anarrativi. E quindi D'Alema, inseriamolo come videogiocatore casual. Sentiamo un attimo allora l'altro autore del libro che ho citato, Mauro Salvador, che è un ricercatore della Cattolica di Milano, ha pubblicato libri e saggi su videogame, sul cinema, sulle interrelazioni che sono strettissime anche in termini di budget. Oggi fare un videogioco serio che deve colpire il mercato costa quanto realizzare un film, è vero Mauro Salvador? Ah, buongiorno. Buongiorno. Sì, assolutamente vero, esistono produzioni che possono essere accomunate per esempio al pinball a cui giocava D'Alema, che si fanno magari con poche risorse, ma esistono produzioni che sono dei colossal AAA veramente equiparabili alle produzioni cinematografiche che guadagnano milioni e milioni di dollari al box office. Ecco, poi fammi un inquadramento storico, proprio perché questa mattina abbiamo degli elementi. Da quanti anni si parla di videogioco e qual è l'evoluzione? Per far capire, non è una cosa che nasce quando improvvisamente siamo resi conto che c'erano degli alieni cattivi che volevano cambiare i nostri bambini e trasformarli in serial killer. Beh, i primi esperimenti sono degli anni 50, cioè l'idea di videogioco si evolve insieme a quella di computer, quindi man mano che la tecnologia diventava più, insomma, capace di fare cose più complesse, l'interazione ludica con questa tecnologia, anche solo per spiegare cosa poteva fare un computer, si è evoluta parallelamente. Cioè il videogioco più o meno all'età dell'Allegro Chirurgo, tanto per mettere un gioco classico tradizionale che tutti dicono: ah, che bello, capito? Sì, diciamo di sì. Poi in realtà diventa fenomeno culturale un po' più avanti, cioè negli anni 70, quando appare Pong, cioè due barre ai lati dello schermo che si scambiano una pallina e si muovono solo in verticale, su e giù, e fondamentalmente devono evitare che questa pallina le superi. Pensa a me, lo regolarono, si attaccava alla televisione, mi ricordo, e si giocava a ping pong, a tennis, poi a pelota, ma era sempre lo stesso gioco perché cambiava la lunghezza delle barre e la velocità della pallina. Esattamente, e un escamotage per rendere questa mini console da attaccare alla TV varia era chiamare queste diverse applicazioni dello stesso tipo di gioco in modi diversi e applicare delle mascherine di cartone alla TV che contestualizzavano il gioco differente, sì. Cioè degli spalti di un campo da tennis invece che il gioco era lo stesso, sì, era tutto delegato all'immaginazione di chi giocava. Comunque fu il primo videogioco, la prima cosa che si giocava con la televisione, impazzivamo, c'era questo rumore della pallina che andava avanti e indietro, mm-hmm. che era sempre la stessa, e poi c'era anche alla stessa consolina si poteva attaccare un fucilino, una pistolina, e si faceva una specie di tiro al bersaglio della barretta che correva sullo schermo. Sì, le bale. Sulle periferiche si potrebbe scrivere un libro a parte, perché hanno una storia molto, molto divertente. Anche un'altra possibile periferica, che in Italia però non è mai arrivata, era la manichetta del pompiere, una mini manichetta del pompiere che serviva per spegnere degli incendi virtuali. Per cui davvero ce ne sono migliaia e sono molto divertenti da elencare. La cosa più interessante è che oggi le sale giochi, cioè quei luoghi che negli anni 80 e i primi anni 90 spopolavano in tutto il mondo, sopravvivono solo grazie a delle periferiche gigantesche, enormi, cioè si balla su dei tappeti interattivi che riconoscono i passi di ballo, oppure si usano dei fucili molto grandi, molto ingombranti, che in casa sarebbe difficile, insomma, difficile portare e utilizzare, oppure si suonano gli strumenti, sono dei bonghi giganti. Davvero ce ne sono decine e decine ce ne sarebbero decine e decine da raccontare. Cominciamo allora a far ascoltare qualcosa e a descrivere qualcosa, così semplicemente dal suono molti ascoltatori potranno riconoscere dei luoghi dell'immaginario in cui sono immersi già in passato. L'esatto allineamento dei pianeti necessario per attivare il triangolo avviene solo una volta ogni 5.000 anni, ma si verificherà che la piccola Lara Croft avrà tempo sufficiente per crescere e trovarlo. Ecco, Marco Pellitteri, questa è Tomb Raider, è, diciamo, il gioco di cui facevo allusione prima. Sono stato costretto a ricomprarmi gli antichi, i primi dischi dei primi giochi di Tomb Raider, poi ritrovare un computer per farli girare. Ecco, cosa ha significato nell'entrata nel mondo della videoludica il personaggio di Lara Croft? Lara Croft è importante per almeno due ragioni. Innanzitutto è un personaggio che ambiva, da parte dei suoi designer, ambiva a essere realistico, quindi basato su delle volumetriche molto prosperose. Sì, aveva delle tette fantastiche, sì. Diciamo che molti ragazzini, le loro prime pulsioni, la prima scoperta, per esempio, mio figlio si era innamorato, era bambino e non capiva perché, poi crescendo ha capito perché, ma la Croft era inquietante, era veramente carina, bella, prosperosa, aveva tutte le qualità che potevano pensare un ragazzino, ecco. Era un'ottima via di mezzo tra l'iconicità, diciamo, schematica di un personaggio di videogiochi e un realismo incombente. Poi un'altra ragione è il fatto che Lara Croft è uno dei primi personaggi dei videogiochi per il grande pubblico con un retroterra narrativo anche di un certo spessore. Si narra del suo passato, di perché fa quello che fa, e quindi oltretutto all'inizio Lara Croft doveva essere un uomo e poi è diventata una donna, e quindi questo è stato, diciamo, un elemento scardinante, un personaggio femminile giocato in grandissima parte anche da giocatori maschi. E poi è una sorta di platform alla Mario Bros, ma tridimensionale, giocato in semisoggettiva. Lara Croft spara, ha tutta una serie di caratteristiche dell'eroe macho, però con la sua femminilità, quindi prego. No, volevo dire, per far capire quelli che dicono i ragazzi stanno davanti al computer e si distruggono, non vi immaginate quanti ragazzi, compreso mio figlio, parlo dell'esperienza che conosco, hanno cominciato a fare parkour, cioè quella tecnica nata nei sobborghi, nelle periferie parigine, per scappare dalla polizia, che permette di usare l'architettura urbana, cioè saltare sui muri, arrampicarsi sulle pareti, salire sui tetti, proprio perché vedono Lara Croft che nel corso del gioco si arrampicava su posti impossibili, usava degli stratagemmi che ci si arrivava da joystick o da tastiera per superare gli ostacoli, quindi aveva una sorta di incitamento alla fisicità estrema. Ci fermiamo un istante per il traffico, poi riprendiamo sui videogiochi. Melog, cronache meridiane. Solo lo scuro apre e chiude la porta per Silent Hill. Per favore, non so che sta succedendo. Tu sai che sta succedendo qui? Mia figlia. Io cerco mia figlia, ho paura che le abbiano fatto del male. Abbiamo perso tutti i nostri figli. La nostra luce. Mi hanno ingannata. Loro sono il male. Sono l'odio. Nel fuoco lei inghiottì il loro odio. Qua siamo in uno degli universi più affascinanti, più profondi, più controversi, più eclettici e allo stesso tempo più forieri di imitazioni sul piano pratico, nato proprio dal mondo dei videogiochi, Silent Hill. Silent Hill è questa sorta di luogo reale ma allo stesso tempo sottoposto a un'infinità di declinazioni parallele in cui si vive come esperienza atroce, drammatica, l'aspetto oscuro della propria vita. Al centro c'è una storia che sa tanto di stregoneria, di cultura che già è stata tramandata nelle nostre tradizionali fonti di trasmissione dei saperi. Sette legate comunque a una sorta di patto di sangue, bisogno di catarsi, santone, streghe, gente bruciata, allo stesso tempo mostri terribili dell'immaginario che prendono corpo. Ecco, da Silent Hill poi nascono anche dei film meno fortunati naturalmente di quella che fu la parte videoludica. Ho visto persone vestite da Silent Hill, vestite da infermiere maledette, vestite da mostri, vestite da testa di piramide, vestite da tutti i personaggi Silent Hill in corso di quelle kermesse che vengono ogni tanto fatte, in cui emergono i cosplayer, questi ragazzi che si vestono come personaggi di videogiochi. Qui c'è tanto comunque di Giappone, che è un universo fantastico e sta completamente condizionando, e non dico nemmeno in negativo, la parte fondamentale della nostra gioventù, ma probabilmente i genitori nemmeno se ne accorgono perché sono rimasti ancora ai robottoni giapponesi che tanto fanno male ai ragazzi, che istigano alla violenza. Abbiamo in collegamento Marco Pellitteri e Mauro Salvador, che sono gli autori di un fantastico libro che veramente è un'enciclopedia utile e interessante non soltanto per chi conosce i videogiochi ma anche per chi non ne sa nulla, così si toglie un po' dei pregiudizi. Conoscere i videogiochi, introduzione alla storia e alle teorie del videoludico, per editore Tunuè. Mauro Salvatore, ricordo che è un ricercatore della Cattolica di Milano, ha pubblicato libri e saggi proprio sui videogame, quindi è una disciplina che ormai si tratta nelle università e condiziona fortemente anche il mercato del lavoro e della creatività, non è più soltanto un luogo per poveri, depravati e maniaci. Cos'hai da dirmi su Salvador, su Silent Hill, sull'immaginario di Silent Hill, che è una delle cose di cui sento più parlare in famiglia? Silent Hill mi terrorizza, devo fare questa premessa. Sì, è spaventoso, però è affascinante per i livelli di lettura. È molto affascinante. Non l'ho esplorato a fondo proprio per questo, nel senso che esistono anche altri titoli successivi che hanno la stessa potenza, magari meno classici, meno radicati nell'immaginario. L'interesse principale dal mio punto di vista di Silent Hill è che è uno dei primi esempi in cui il giocatore è posto da solo di fronte a una situazione di impotenza, non solo di incomprensione verso il luogo in cui viene calato, ma anche proprio di impotenza nei confronti dei suoi avversari, per cui raggiungere la capacità di superare gli avversari che hai elencato tu molto bene prima, la testa di piramide, le infermiere, tutte entità spaventose, è un processo lungo, un procedimento lungo, cosa che invece solitamente negli altri giochi del periodo, ma anche in molti giochi di oggi, come dire, questo processo di apprendimento viene liquidato molto rapidamente e il giocatore è un'entità quasi onnipotente, comunque quasi molto capace di risolvere i problemi che si trova di fronte. È molto però interessante quello che dici. Marco Pellitteri, ricordo che è un sociologo dei media e dei processi culturali, questa viscosità e questa quasi immobilità, sabbie mobili tipiche dell'incubo del sogno, è ricostruita anche nella capacità di apprendimento e di superare le difficoltà in un gioco, ma questa non è anche scuola di comportamento nelle vicende umane e nei rapporti sociali? Sì, il videogioco, come viene anche mostrato in, o è anche ipotizzato, non soltanto ipotizzato ma anche mostrato in varie ricerche, in qualche modo è una sorta di educazione virtuale alla vita o almeno a determinati pezzi di vita, può esserlo, non ha soltanto componenti di apprendimento, di coordinamento visomotorio eccetera, ma può anche essere dal punto di vista narrativo un'esperienza. Il videogioco ha qualcosa in più tra l'altro rispetto all'esperienza vicaria che si ha leggendo un romanzo di formazione o guardando un bel film. Il videogioco consiste nell'agire una realtà, sebbene virtuale, e per cui l'esperienza emotiva e cognitiva è più intensa e quindi l'apprendimento può essere a suo modo più intenso, più efficace e più rapido, perché c'è un'immersione molto molto più avvolgente nella realtà del gioco. E i risultati sono anche abbastanza confortanti nel libro, che appunto è anche una ricostruzione delle teorie e dei dibattiti pubblici sul videogioco. Mostriamo anche in maniera, come dire, consolante questi risultati positivi. Al contrario, invece, i risultati negativi sono quantomeno contraddittori e molto minoritari. Sì, perché io sento dire spesso, oramai sempre di più, beh, ma qualcosa c'è, questi ragazzi ormai non capiscono, e citano degli episodi di cronaca agghiaccianti, terrificanti, bambini che uccidono i loro compagnetti di scuola e poi dicono, ma no, tanto si rialza, adesso si rialza. Ecco, lì qualcosa è sbagliato nella trasmissione, nella consegna dello strumento videoludico. Non si regala un videogioco a un bambino o un ragazzo se non sa nemmeno il genitore almeno i rudimenti di quello che ci sia dentro e non sa accompagnarlo almeno agli inizi nel percorso. SimCity trasforma il giocatore nel sindaco di una città da costruire da zero, dandogli carta bianca sulla costruzione di centri commerciali, industriali e residenziali, rispettando ovviamente il budget disponibile. Per complicare il già difficile compito di gestire la città, ci sono una serie di disastri che possono abbattersi sulla vostra creazione. Ecco, avevo mandato per l'Iteri SimCity proprio per far capire quello che può essere un altro tipo di schema. Anche lì è una struttura, è stata molto criticata, ma il fatto di poter creare una città, entrare nei personaggi, nelle dinamiche sociali, nel capire come ci si muove... ci ho messo tantissimo tempo a riuscire a capire come ci si muovesse in SimCity, evitando che prendesse fuoco la cucina. Poi ho capito qual era il problema, perché mio figlio da piccolo era terrorizzato perché la mamma prendeva sempre fuoco in cucina. Poi ho capito che dipendeva da alcuni passaggi che doveva fare. Ecco, questi giochi hanno secondo te la possibilità di essere usati in chiave didattica, in chiave di apprendimento delle relazioni sociali, ad esempio? Che risponde, io o Mauro? Tutte e due. Tu mi rispondi per l'aspetto sociologico, e Mauro poi dice in realtà se nel muoversi nella vita significa anche sapersi muovere bene con un joystick in mano. Allora cominciamo con Pellitteri. Sì, beh, un videogioco come SimCity e altri giochi, come dire, gestionali, comporta che il giocatore non è soltanto il giocatore che si muove in una realtà, come dire, esterna a lui. Questa gestionalità ha a che fare con un'azione quasi di demiurgo, e questo può essere molto didattico, perché non credo che i videogiocatori vengano presi da deliri di onnipotenza, semplicemente imparano a gestire una realtà complessa come quella di una città o anche di una civiltà. Un altro gioco di simulazione, un God Game, come si suole chiamare, è Civilization, per esempio, dove vengono ricostruite intere civiltà, e il giocatore, il ragazzo, insomma, impara delle cose, impara a confrontarsi con realtà più grandi di lui. Non è che facendo questo si illude di essere Dio. Allora, Mauro Salvador, proprio in conclusione, sei convinto che possa esistere una tipologia diversa rispetto al nerd, al fissato, ai ragazzi di Big Bang Theory, che stanno praticamente in eterno bilico fra il mondo reale e il mondo immaginario? Oggi può essere un'azione che può fare una persona banalmente definita normale di essere appassionata ai videogiochi? Sì, è assolutamente possibile, ma sono i prodotti stessi che concedono questo ormai. Cioè, ci sono produzioni indipendenti, produzioni più piccole, magari con meno visibilità in Italia, ma con grossa visibilità negli Stati Uniti o all'estero, dove vengono prodotti, che non che in Italia non ne vengano prodotti, anche in Italia ci sono ottimi prodotti indipendenti che trattano temi in maniera matura e che fondamentalmente vanno oltre lo schema del gioco gestionale o del gioco sparatutto in cui bisogna uccidere gli avversari, e che trattano questioni complesse, non solo filosofiche ma molto attuali. Esiste un gioco che si chiama Papers, Please, che è la simulazione di una frontiera fra uno stato dell'ex Unione Sovietica immaginario e l'Occidente, praticamente. E il giocatore deve fondamentalmente controllare i passaporti con un crescente numero di limitazioni, di leggi, di cavilli, per cui ogni giorno è più difficile capire chi può entrare e chi non può entrare, e il giocatore viene pagato a passaporto visionato, per cui ogni giorno ne riesce a visionare meno perché ha troppi cavilli da tenere sotto controllo, e alla sera deve assegnare le risorse che ha guadagnato alla sua famiglia. Beh, dimmi se questo non è un training efficiente per entrare finalmente nel mondo della gestione dei propri affari familiari, delle cose concrete, un'educazione alla vita e al mondo. Spero con questa mattina aver dato qualche elemento di sicurezza e di tranquillità ai tanti genitori, nonni o persone che ancora hanno il mondo in un secolo passato, che vedere la confezione di un videogioco sotto l'albero di Natale non significa aver dato la patente di serial killer in mano ai propri figli o nipoti. Grazie agli ospiti, alla prossima.